24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci puntuali anche oggi, sono le 6:33 minuti e siamo ben svegli qui a Radio 24, cari ascoltatori, con il nostro Alessandro Longoni in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè lì in regia, già pronto. Oggi chi mi aiuta? Alzate la voce, la saracinesca, siete forti, baldi e giovani e schiavi. Eccoci qua. Il caffè volentieri a tutti quanti. A tutti quanti il caffè offre come al solito Nicole Minetti. Oggi, mentre la nostra moca va, perché siamo slow, siamo lenti, un po' come dice Celentano, no? Siamo lenti, siamo poco rock qui. E lo offre, anzi, Nicole Minetti a due graditi ritorni. Voglio salutare il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Buongiorno e ben svegliato. Buongiorno. È ben svegliato? Sì, da tanto? No. Svegliato. Saluto anche un graditissimo altro ritorno, Alberto Forchielli, il presidente dell'Osservatorio Asia. Buongiorno Forchielli. Salve, buongiorno. Dove si trova nel suo peregrinar nel mondo? Adesso sono a Bologna, sveglio dalle 4. Dalle 4. Cui... Sì, comincia ad avere già sonno, nel senso che sì, deve... questa è ora per me di tornare a letto. Sì, esatto. Tornare a letto. Esatto. Allora, è tornato in TV, eh? Avete visto Celentano? Io l'ho visto poco. E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation. Allora, mi pare di capire che abbia cantato molto e predicato poco. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno. Svalutation. Io non capisco perché. Insomma, un Celentano che a un certo punto ha portato anche sul palco Fitussi, l'economista, col pubblico che gridava la musica, altro che parole, la musica. Non so, perché poi c'è l'attualità politica, ma ne parleremo. L'avete visto, De Manzoni? Hai visto? Dovere d'ufficio, per forza. Dovere d'ufficio, eh? Cosa ha fatto? È un evento, bisognava parlarne sui giornali, quindi me lo sono guardato. Sperando magari in qualche uscita alla Celentano, ma è vero che ha predicato poco e ha cantato molto? Sì, è vero, ha predicato poco, è stato fatto di dei suoi silenzi cosiddetti espressivi, che però al pubblico non è che siano piaciuti granché. Ha detto qualche banalità in tema di economia, anche pericoloso per certi versi, perché momento di recessione dire che non bisogna consumare, già consumiamo poco. Se ascoltano Celentano, qui chiudiamo baracca e burattini. La decrescita. lo vogliamo sentire. A un certo punto ha parlato di crescita e ha detto questo sulla crescita. Non si sente che parlare di crescita. Tutti la invocano, ma nessuno riesce a spiegarci in quale modo si può dar modo alla crescita. Personalmente credo che la crescita sia subordinata a una drastica inversione di marcia dell'uomo, senza la quale è impossibile venirne fuori. Naturalmente questa è solo una mia idea, È chiaro che io posso anche sbagliare. Forchielli sbaglia, ha parlato di decrescita più che di crescita. Non so se l'ha visto Celentano. Ah no, c'è una scuola di pensiero che invoca l'austerity, ossia è la stessa scuola di pensiero che ha portato alla crisi del 20 e alla crisi del 30. Sì. Cioè, lui è in un filone. Sì. In un filone di economia teorica, cioè, non è che c'è quando si dice bisogna abbassare il tenore di vita, bisogna rientrare dal saldo della bilancia dei pagamenti, bisogna abbassare, questo è. Però quelli di lì, capito? Sì. Non è che lui sia così lontano dalle teorie economiche nella sua semplicità, eh? No, no, ma infatti ha chiamato lì Fitoussi, che è un economista, quindi ha discusso di questi temi. Però anche voi di Libero, De Manzoni, siete sempre, no? Show milionario per dirci risparmiate. Questo è il titolo di prima pagina di dedicato a Celentano di Libero. Ce l'avete su, no? Con questo, appena apre bocca. No, ma non è così. Non è, cioè, vabbè, noi siamo un po' irriverenti, ci divertiamo anche andare a cogliere un po' le contraddizioni, e la contraddizione, alcune contraddizioni c'erano di sicuro, insomma. Una era questa, cioè uno show meraviglioso, per certi versi, cioè, raramente ho visto riprese così belle di Verona, che tra l'altro è la mia città, per cui mi ha fatto anche piacere. E lo show era ricco, molto. L'uomo che ci raccontava che bisogna risparmiare era molto ricco. Perché non dirlo? No, ma infatti, però c'è sempre questo accenno. Forchielli, è giusto che un uomo molto ricco, beh, Celentano molto ricco lo sarà, come quando si dice Beppe Grillo è molto ricco e quindi non può parlare di economia, non può comunque predicare in un modo e razzolare in un altro? Condivide Forchielli questo atteggiamento oppure è un po' qualunquismo? Sì, io sono... generalmente cerco di parlare delle cose che so, e la storia ormai ha provato e riprovato che è lo stimolo che fa uscire dalle crisi, non l'austerity. Questo ormai è ben radicato nella memoria storico-economica, per cui sì, sarebbe meglio se cantasse di più e parlasse di meno. Sì, quindi anzi spingesse un po' più per la crescita invece che la decrescita. Che facesse quello che sa fare. Cantare. Ma pare che... La decrescita deve essere una cosa per ricchi, punto. Un po' un lusso che ci si può permettere solo in certi casi. Cioè, la decrescita è un lusso per ricchi, insomma. Ecco, se hai pochi soldi è meglio che si cresca che non che si decresca. Questo sì. Questo mantra filosofico Forchielli le piace, che dice il vice direttore di Libero. L'austerity è un qualcosa che può valere solo per i ricchi che se lo possono permettere, gli altri no. No, è che è fondamentalmente sbagliato, perché se lei guarda tutte le crisi... Ma Celentano l'ha detto, La Celentano l'ha detto, è una mia idea, può darsi anche che sbagli. Ho capito, però ragazzi, quello fa audience e quello influenza la gente in modo negativo. Capito? Ha delle responsabilità. Però sono teorie economiche che esistono, quindi... Capito, ma non si possono, ma lui non le basa... le basa sull'umore del momento, capito? E poi oltretutto, come le dico, non corrisponde a quello che penso, quindi si può immaginare il mio atteggiamento. Eh no, chiaro. Allora, capito? Se volete, io non ho giudizi sulle sue canzoni, sì. Capito? Ma tanto ieri ha cantato molto, anzi quando ha parlato, ma è vero De Manzoni, tu che l'hai vista, è vero che quando parlava Fitoussi la gente diceva sì, musica, sì, vabbè. Sì, c'è stato anche questo. Sai, era 18 anni, mi pare, che non si esibiva in pubblico, infatti. I biglietti costicchiavano e quelli che sono andati a vederlo avevano voglia di sentirlo cantare, perché è la cosa che sa fare meglio, sì, oggettivamente. Tra l'altro c'è tutta la polemica, ma non so se ne ha parlato di questo, del fatto che doveva essere uno spettacolo per la Rai, che però la Rai non ha voluto, così dice Celentano, e ha fatto bene andare su Canale 5, no? Giustamente. C'è stata polemica anche su quello, perché poi ovviamente qui siamo anche abbastanza demagogici in Italia. So che Fo, per esempio, Dario Fo era invitato, ha detto ma io no, a casa di Berlusconi non ci andrò mai, e quindi ha declinato. E anche su Twitter ho visto che c'era abbastanza polemica sul fatto ma come Celentano proprio da Berlusconi, in realtà queste sono sciocchezze. Non so se sì, è vero, lui aveva preparato questo show, lo voleva offrire alla Rai, con la quale aveva fatto Sanremo, quindi aveva rapporto tutto quanto, la Rai non l'ha voluto. Canale 5 l'ha preso al volo. Lo spettacolo, ripeto, dal punto di vista televisivo è uno spettacolo coi fiocchi, penso. Oggi leggeremo i dati Auditel, ma non ho dubbi che sarà stato successo. Certo. Allora, tra l'altro, hai nominato Berlusconi, sono arrivati i giornali aprono chi come il Sole 24 Ore sulle pensioni, con il ministro Fornero che dice la riforma non va svuotata, attenzione. E poi Berlusconi, perché c'è stato l'annuncio di Alfano, è pronto a farsi da parte per unire i moderati contro la sinistra di Bersani e Vendola. E dunque il Corriere della Sera: Berlusconi cerca alleati. Il Giornale: Alfano offre il PDL a Casini. Il Fatto: Alfano rottama Berlusconi, PDL allo sbando. Ma poi c'è Libero, visto che abbiamo vice direttore. No, ma lo dico, l'ho lasciato per ultimo, perché Berlusconi, lascio e vi spiego perché, cioè c'è un colloquio. Maurizio Belpietro ha telefonato a Berlusconi, che ha risposto. E ha detto non è un bluff, perché questo già, no, con Berlusconi siamo un po' pronti, no? Sì. Ai colpi di scena. Ci dobbiamo credere, De Manzoni, che allora, Berlusconi. Io ero presente, per cui posso raccontarla. Ah, ecco. Io sono andato nell'ufficio di Belpietro e ho detto: guarda, che c'è questa cosa, sta crescendo. E lui ha preso il telefono e Berlusconi gli ha risposto confermando. Hai capito, Belpietro? Però è così, se vogliamo essere sicuri, seri, diciamo le cose come stanno. Quello di Berlusconi, anche a Belpietro, non è, secondo me, l'annuncio di una decisione, ma l'annuncio di un'intenzione. Un'intenzione. La via di uscita c'è sempre. Lui dice: io faccio tutto questo per riunire i moderati. Però il pensiero è: se questi mi dicono di no, allora mi devo sono candidare. Pronto a prendere altre decisioni, compreso tornare in campo, tutto quanto. Quindi allora qui De Manzoni, devo avere il parere di Alberto Forchielli, uno che quando si trova di fronte a questi politici di destra e sinistra non si trattiene molto. Forchielli, allora, Berlusconi si deve fare da parte, può essere colui che torna ancora in campo se non si trova un accordo tra i moderati? Come la vede? Berlusconi ha la sua utilità sociale. Mettiamoci a parte il putiferio in Italia, che non si capisce, ma sull'estero i suoi annunci sono devastanti. Io ho passato un mese in Germania e sono tornato l'altro giorno, capito? E le cose che dice Berlusconi vanno sparate sui giornali, queste se le bevono subito, perché la gente è terrorizzata dal fatto che Berlusconi posso tornare. Addirittura adesso incontro la gente per strada in Germania terrorizzata da Berlusconi. Bello, negli ambienti finanziari. Ambienti finanziari. Ma quelli contro in Germania. Certo. Questo ha detto che dobbiamo uscire dall'euro, ma come, capito? Ossia, genera tutto uno scompiglio e una campagna di confusione mediatica che non fa altro che poi rafforzare il ruolo di Monti. Che poi la gente dice: beh, insomma, questi politici un giorno ne dicono un giorno ne dicono, Monti va benissimo. Caffè. Grazie. Ma 5 caffè, veloce! Non lo fare acqua! La serata di Celentano, il giorno dell'annuncio di Alfano su Berlusconi pronto a farsi da parte. Io non ci credo, non ci posso credere, cioè finirebbe un'era. Per unire il centrodestra, Silvio Berlusconi è disponibile a non candidarsi. Occorre un gesto di visione e di generosità degli altri protagonisti storici del centrodestra italiano per non consegnare il paese alla sinistra. Allora, siamo con Alberto Forchielli, il presidente dell'Osservatorio Asia, uno dei 10. Com'è sta storia, Forchielli? L'hanno messa in Cina? In Cina è uno dei 10 blog più influenti, il suo, cioè secondo i cinesi, al mondo, al mondo. Cioè, voi pensate, stiamo parlando con Alberto Forchielli, questo è così? Uno dei 10 blog più influenti sulla Cina? Sì, sono settimo. Non si sminuisca, non si sminuisca. È vero, è così. Sì, io poi pubblico gli stessi articoli che pubblico in Italia, ossia sono gli stessi tradotti in cinese, però è un punto di vista molto interessante. Per loro interessante, non mi censurano. È che questa no, è già una buona, è già una buona no, cosa. No, no, sono carini, no. Non la censurano, però De Manzoni, che è il vice direttore di Libero, che ripeto oggi ha un colloquio Belpietro con Berlusconi conferma, ha sentito l'idea di Forchielli, hai sentito Massimo, cioè questa, sì. Ma basta Berlusconi, cioè siamo screditati, basta nominarlo in Germania dove Forchielli va per lavoro come tutto il mondo, basta nominarlo ed è il disastro, no? La gente si mette le mani nei capelli. Ma forse la gente no, che o gli ambienti che contano, ecco. Di dissapori, sì, sicuro. Poi vai a vedere se abbiamo ragione noi o loro, nel senso che alle volte loro sono più contenti, certi ambienti, di trovare persone un po' più malleabili. Berlusconi non è stato malleabile nei loro confronti. Adesso, al di là del folklore che c'è, purtroppo della culona, ma sicuro, quello c'è stato, è inutile negarlo. Poi quell'intercettazione non saltò mai fuori, ma sì. È passata la storia, quindi la diamo per fatta. Quello ha contribuito, non c'è dubbio, però io penso che poi alla fine è la sostanza quella che conta. Berlusconi sicuramente era un po' meno arrendevole ai desiderata tedeschi, giusti o sbagliati che siano, poi se vuoi si possono aprire dibattiti se è giusto che l'Europa segua quello che sta dicendo la Germania e la Merkel, oppure se seguendo quello che sta dicendo la Germania e la Merkel finiamo tutti in una recessione profondondissima dalla quale non veniamo più fuori. Non vogliamo chiederlo a Celentano questo, no? Forse Celentano stasera ci potrebbe dire qualcosa su questo. Io un po' questa seconda impressione, ma certo se tu vuoi imporre un'egemonia, un certo tipo di linea economica, ti fa più piacere avere al governo di un paese alleato uno che dice sì, hai ragione, piuttosto che uno che dice ma no, tu sei matto. Insomma, Forchielli, qui la questione è seguire la Germania o no? O è quella la strada o lì affossiamo tutti? No, beh, lì andiamo tutto a picco, ma di quello se ne è accorta anche la Merkel. Ossia, in Germania adesso c'è molta paura, perché il 42% di export in area euro se ne va. L'America dopo le elezioni c'è il fiscal cliff, e per cui che precipita in una crisi importante. La Cina non tira più, sentito, i tedeschi adesso hanno paura. Fiscal e cliff. La manovra. Lei è sveglio dalle 4, ma alle 6.52 gli italiani che sentono parlare del fiscal cliff. Il fiscal cliff è un meccanismo automatico per cui se non raggiungono un accordo di bilancio, c'è il crollo. Il bilancio americano viene sforbiziato di 1.2 trilioni di dollari. Questo fa precipitare l'economia americana. Allora, i cinesi non comprano più e comunque non comprano più macchinari tedeschi perché non investono. Sì. L'area euro, che è il grosso delle esportazioni tedesche, fa le auto meno 20%, per cui qui non vanno più. In America, dopo le elezioni, si ferma tutto, per cui adesso i tedeschi hanno paura. Vedete come si possono spiegare le cose in maniera anche molto semplice, appena svegli. Almeno Renzi le piace, devo chiudere il bar di Radio 24, Forchielli, almeno Renzi le piace, che è giovane, nuovo, fresco. Troppo format, è tutto impostato, troppo format. Troppo format, va bene. Grazie, mi devo fermare. Alberto Forchielli, il presidente dell'Osservatorio Asia, il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni, grazie per questa sveglia, paga Nicole Minetti come sempre. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, con ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. È martedì 9 ottobre, intanto uno sguardo sui titoli. Il Sole 24 Ore apre: pensioni, stop del governo, la riforma non va svuotata, è il ministro Fornero che lo dice. La Stampa anche su questo: pensioni, scontro, Fornero, partiti, e il Secolo XIX, pensioni, scontro sulla riforma. Poi c'è la vicenda Berlusconi, il segretario del PDL Alfano ha detto è pronto a farsi da parte per riunire i moderati. Berlusconi cerca alleati, così apre il Corriere della Sera. Libero invece ha un colloquio, cioè il direttore Maurizio Belpietro chiama al telefono Berlusconi. Il titolo di prima pagina: lascio e vi spiego perché. Il giornale Alfano offre il PDL a Casini, il Fatto Quotidiano Alfano rottama Berlusconi, PDL allo sbando, il Messaggero Berlusconi pronto a lasciare, l'Unità ora Alfano implora Casini, mentre apre sulle regioni Repubblica, meno poteri alle regioni, ecco la legge di cui Repubblica è entrata in possesso, una riforma dell'articolo 5 a cui sta mettendo mano il governo. Pubblico invece apre proprio sul tema di cui ci occupiamo noi, IMU omessa est, fateli pagare, questo è il titolo con sullo sfondo il Vaticano, mentre il Manifesto parla della vittoria, quarto mandato presidenziale in Venezuela per Hugo Chavez, il sogno americano, così un Chavez trionfante viene immortalato in prima pagina del Manifesto. Voglio partire da che cosa? Beh, spesso diciamo le province con la difficoltà che hanno con l'opinione pubblica che chiede che vengano cancellate, dove forse non poté una legge, rischia di arrivare una maxi truffa ad affossare una delle province, anche se in maniera brutale, affossarla finanziariamente, vale a dire la provincia di Catania, di cui tra l'altro è il presidente Giuseppe Castiglione, che è anche il presidente dell'Unione delle Province Italiane, quindi di tutte le province, è stato nostro ospite settimana scorsa. La storia è raccontata sia dal Sole 24 Ore che dal Corriere della Sera. La leggo dal Sole, da Gianni Trovati, a pagina 25, la provincia di Catania affossata da una truffa del 1972, una vicenda anche di lungaggini burocratiche della giustizia tipicamente italiana. Allora, scrive Trovati, nel 72 Giuseppe Castiglione, che oggi guida la provincia di Catania, era in quarta elementare. Mentre lui studiava al sussidiario, due dipendenti della provincia avevano messo in piedi una truffa ai danni dell'Istituto Finanziario Italiano, poi fallito, fatta di finte richieste di prestiti in cambio della cessione del quinto dello stipendio. I due in pratica intascavano i prestiti, ma quando l'istituto andava alla ricerca del quinto, veniva a scoprire che l'intestatario del prestito non ne sapeva nulla, in qualche caso neppure esisteva. Nel settembre 91, all'epoca Castiglione era consigliere comunale a Bronte per la Democrazia Cristiana, i due sono stati condannati e la provincia, in solido con loro, a risarcire 1,8 miliardi di lire accumulati con la truffa. La provincia però si oppose, non fu una grande mossa. La battaglia giudiziaria, insomma, è durata 40 anni, e la bordata è arrivata ieri da Masca Lucia, appendice dell'Etna, dove la sezione distaccata del Tribunale di Catania ha chiuso la partita stabilendo che la provincia deve pagare ora 23 milioni di euro in soluzione unica con atto di pignoramento già partito. E Castiglione, nel frattempo diventato presidente di provincia, cresciuto appunto, dice: assurdo, inammissibile, ieri ha occupato simbolicamente la tesoreria provinciale. Insomma, una super multa che come minimo farà sforare in modo plateale il patto di stabilità. La racconta anche sul Corriere della Sera questa storia che, ripeto, mette insieme un po' tutto, truffa, lungaggini della giustizia, 40 anni per arrivare a una sentenza. Se la provincia rischia il crack per una truffa del 1972, Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, con anche la riproduzione di due articoli dell'epoca pubblicati nel 74 dal Corriere della Sera, indagini su una truffa di 2 miliardi a Catania. Arrestato un cervello della truffa all'IFI. Questi erano i titoli del 1974 del Corriere della Sera, che potete leggere riprodotti sul meglio come pagina del 20 novembre 74, riprodotti dal Corriere della Sera di oggi. Evidentemente sono andati a spulciare l'archivio, a ritrovarli da lì. Ebbene, questa vicenda è arrivata a conclusione ieri, davvero una conclusione incredibile che rischia di affossare finanziariamente la provincia di Catania. Rimango invece sul Corriere della Sera insieme al Manifesto per una polemica innescata da una dichiarazione del ministro dell'istruzione Profumo. Il ministro dell'istruzione, che era ieri col sindaco di Monterosso, città danneggiata dall'alluvione che colpì le Cinque Terre, ha parlato e parlando dell'importanza del rispetto dei tempi nella pubblica amministrazione in materia di semplificazione burocratica, ha ripreso una frase già usata sia da Churchill che da Mussolini nella storia. La frase è questa e l'ha detta anche Profumo: il paese va allenato, dobbiamo usare un po' di bastone e un po' di carota, e qualche volta dobbiamo utilizzare un po' di più il bastone e un po' meno la carota. In altri momenti bisogna dare più carote, ma mai troppe. Ecco, questa è la frase, non copyright Profumo, l'ha utilizzata, rubata dalla storia, da altri statisti, ma detta dal ministro Profumo. La polemica sul manifesto è questa: in Italia c'è Profumo di bastoni. Così a pagina 4 del manifesto, una frase definita shock dal manifesto. Perché? Perché detta dal ministro Profumo, che non si riferiva assolutamente alla questione della scuola, ma a pochi giorni di distanza dalle manifestazioni degli studenti, dove il manifesto denuncia gli studenti hanno conosciuto il bastone, o meglio alcuni di loro il manganello. Beh, certo, non è una frase felice. Scrive Roberto Ciccarelli sul manifesto a pagina 4: ormai è ufficiale, il ministro dell'istruzione Profumo ha perso il controllo delle metafore, il paese va allenato, ha dichiarato ieri, dobbiamo usare un po' di bastoni, un po' di carota, insomma quella frase lì, e in altri momenti bisogna dare più carote ma mai troppe. Prendendola alla lettera, scrive il manifesto, è un'affermazione di un'incredibile gravità. Dopo le cariche disordinate delle forze dell'ordine contro gli studenti medi di venerdì scorso, la boutade ispirata a un elementare morale del castigo fa rabbrividire, soprattutto perché venerdì 12 ottobre gli studenti torneranno in piazza sfilando in almeno 50 città. Insomma, il manifesto dice una polemica su questa frase shock del ministro Profumo. Poi, cari ascoltatori, prima della pubblicità ve la devo raccontare, anche se in sintesi, ciò che succede in Sicilia, dove c'è una campagna elettorale. Quando c'è la campagna elettorale ci si sbizzarrisce con i candidati un po' strampalati e anche con i manifesti elettorali strampalati. Libero se ne occupa oggi a pagina 7 e il Corriere della Sera in un'intera pagina, pagina 13. Hanno candidato anche un cane. Non è una barzelletta, in Sicilia è candidato a governatore un cane. C'è la foto di un cane. Scrivi Stefano, con lo slogan: meglio un cane politico che un politico cane. Ecco, questo è, racconta Felice Cavallaro, intervistato, il cane abbaia. Cosa potrebbe mai fare un bulldog francese chiamato Stefano, candidato governatore della Sicilia? Il programma lascia a desiderare, ma i fan di Stefano pensano che sia meglio un cane politico che un politico cane. Ecco, forse questa è la candidatura più bizzarra, ma troverete anche delle candidature, non so, un tale Mangiafranco che ha tappezzato i manifesti a Palermo con questo programma: villa a mia moglie, SUV a mio figlio, cabina a Mondello per mia suocera. Questo è il programma elettorale che riecheggia veramente eccetto la qualunque. Ma poi ci sono anche degli slogan per i quali i candidati serissimi sono stati presi in giro. Per esempio la candidata Anna Tiziana Iannotta, che ha questo slogan: riattacchiamo le arance agli alberi. Non si capisce bene, riattacchiamo le arance agli alberi, è stata presa un po' di mira, un po' presa in giro, si capisce che cosa voglia dire. Oppure c'è chi ha messo regione e sentimento, che riecheggia ovviamente ragione e sentimento. Poi c'è Cateno De Luca, che è uno che è un deputato che è famoso, scrive Felice Cavallaro sul Corriere, per essersi già presentato in mutande, arrestato per abuso d'ufficio e concussione. Ovviamente lui gioca sul suo nome, Scateno De Luca. Cateno De Luca diventa Scateno De Luca. Oppure il risveglio del sud, meritocrazia ovunque, il simbolo è un osso, ci hanno ridotto così, con un osso ci hanno spolpato. Insomma, campagna elettorale, bizzarria che trovi. Certo, un candidato governatore cane, questo ancora non si era visto. La notizia politica del giorno sicuramente è l'annuncio del segretario del PDL Alfano, che dice: Berlusconi è pronto a farsi da parte se questo serve a unire i moderati da far guidare, e questa è l'aggiunta a Casini. E è la verità, è un bluff, è un qualcosa, un colpo di scena concordato, è un qualcosa, una fuga in avanti di Alfano. Su questo si esercitano un po' i giornali oggi. Berlusconi pronto a non candidarsi, questo ha detto Alfano. Certo, si può partire da quello che lo stesso Berlusconi dice a Libero, perché Maurizio Belpietro, il direttore di Libero, chiama Berlusconi e al telefono dà la sensazione di essere oscuro della bomba lanciata da Angelino Alfano, quella di una sua rinuncia alla candidatura delle prossime elezioni, perché Berlusconi esordisce così. Quale storia? Di che storia mi sta parlando, Belpietro? E di questa storia non è una novità la risposta di Berlusconi, è quanto dico da tempo: io voglio l'unità dei moderati e per ottenerla, se serve, sono pronto anche a non presentarmi. Che c'è di strano? Io intendo fare ciò che è utile e giusto per il mio paese. Se per ottenere un fronte unico contro la sinistra c'è bisogno che io mi faccia da parte, lo farò. Casini e Montezemolo, per dar vita a un nuovo schieramento col PDL, non vogliono Berlusconi? E Berlusconi si toglie dalle scatole. Tutto qui, niente di nuovo, è sempre stato il mio atteggiamento. Alla mia età non inseguo certo una poltrona. Questa dunque è la posizione ufficiale di Silvio Berlusconi. Lo stesso Maurizio Belpietro dice: mi sembra molto tranquillo in realtà lei quando dice queste cose. Non è che è un trucco, sta preparando qualcosa, un colpo di scena. Ma no, non c'è trucco né possibilità di ripensamento. Io sono tranquillo, come premier possono candidare chi voglio. Lo faccio nell'interesse del mio paese per non consegnare l'Italia a Bersani e Vendola. Del resto questa è sempre stata la mia preoccupazione fino al 94, quando fondai Forza Italia. Insomma, a sentirlo, scrive Belpietro, Berlusconi sembra deciso a rinunciare a una nuova discesa in campo. Ripeto, i giornali e i retroscenisti della politica si interrogano: verità o bluff? Casini già ieri ha detto, intervenuto da Lilli Gruber, sono pronto alle sfide, ma sono anche pronto a dire no agli inganni. Quindi evidentemente Casini qualcosa fiuta nell'aria, che c'è qualcosa che non va. Francesco Verderami oggi sul Corriere della Sera, in prima pagina, dal titolo "La partita a scacchi con il leader UDC", scrive: la mossa l'ha fatta Alfano, ma a benedirla è stato Berlusconi. Una mossa concordata, la definisce Francesco Verderami. Non c'è spazio per risentimenti, resa dei conti, non più. Sebbene il Cavaliere ancora fino a qualche mese fa definisse Casini un delinquente politico e dicesse che confini potremmo vederci solo di notte, altrimenti la gente ci prenderebbe a sassate, si è rassegnato in realtà alle priorità radicalmente cambiate. Ma c'è anche un'altra ragione per questa mossa, secondo Francesco Verderami, e cioè che se è vero che il PDL affonda, è altrettanto vero che l'UDC non sfonda, che il progetto della Lista per l'Italia si è già di fatto arenato, che le primarie del centro-sinistra stanno mutando la geografia politica. Insomma, la sortita è stata decisa, perché altrimenti, come dice Berlusconi, c'è il rischio di passare alla storia come colui il quale ha consegnato il paese alla sinistra, e io non voglio questo. Questa sarebbe la mossa di Berlusconi. Anche in un altro interessante retroscena sul Secolo XIX di Giovanni Palombo, Angelino ritirò il Cavaliere dalla corsa, pare che sia andata così. Qualcuno ha detto ad Alfano: non puoi permettere che Berlusconi sfasci tutto, ora è arrivato il momento di agire. E allora Alfano avrebbe semplicemente avvisato il Cavaliere: io vado a un convegno con Casini e gli faccio l'ultima offerta. Gelida la risposta dell'ex capo dell'esecutivo: va bene. Da qui sarebbe partita l'idea di questa mossa. Secondo il giornale, invece, molto vicino ovviamente a Silvio Berlusconi, Alfano offre il PDL a Casini. È critico Alessandro Sallusti, il direttore, parla di un centrodestra senza bussola. Mentre Berlusconi è in Russia, ecco, viene sottolineato questa cosa, mentre Berlusconi è in Russia, il segretario annuncia il Cavaliere pronto a non ricandidarsi. Adesso tocca a Casini. Insomma, è come se fosse un vero e proprio golpe. Berlusconi era per i festeggiamenti di Putin del compleanno e Alfano annuncia questo. Ci sono però già i nomi che circolano sui possibili successori. Il nome che in più mi ha stupito, però scritto da Ugo Magri sulla Stampa. Ugo Magri è uno che di Berlusconi, di tutto quello che gira nell'entourage di Berlusconi, se ne intende, però mi ha stupito sicuramente. Nella rosa dei successori a cui sta pensando Berlusconi come facce da mostrare per prendere voti c'è Paolo Del Debbio, cioè il conduttore di Quinta Colonna su Rete 4. Se Silvio getta la spugna, chi spingerà avanti al suo posto? Nessuno lo sa, e nel buio fitto si moltiplicano gli identikit dei possibili rimpiazzi. L'ultimo che circola ai piani alti del PDL è Paolo Del Debbio. Professore universitario, dunque colto, ma niente affatto noioso, anzi frizzante, quanto basta per andare in TV il suo programma su Rete4, Quinta Colonna, finora è andato sorprendentemente bene trattando temi tipici del berlusconismo, dalle tasse agli sprechi, con collegamenti in piazza stile Santoro. C'è chi lo accusa di populismo tremendo all'interno del partito, temendo che Del Debbio diventi popolare, perlomeno nella fascia di pubblico dove andava forte Emilio Fede. Non è giovane come lo gradirebbe Berlusconi, perché ha 54 anni, però è giovanile e coi riccioli. E perché il cavaliere dovrebbe puntare su di lui? Semplice, le sta tentando tutte. Sono mesi che fa casting, cioè seleziona possibili candidati. Dunque, Paolo Del Debbio. Così dice la stampa. Per Repubblica, invece, il retroscena di Carmelo Lo Papa, l'obiettivo di Berlusconi è quello che per la verità si dice da un po' di tempo, secondo alcuni retroscena della politica, in cambio dell'addio quello che vuole Berlusconi è il salvacondotto, soprattutto giudiziario, per il caso Ruby, tanto che ieri hanno fatto notare, fanno notare ancora anche su Repubblica e altri giornali, è rispuntata una norma battezzata Salva Ruby nel disegno di legge corruzione. Accerchiato tra Ruby, Tarantini e Dell'Utri, questo per Repubblica è l'obiettivo di Berlusconi in cambio dell'addio: voglio un salva condotto. In questo tenore, non so, stona un po' la frase del premier Mario Monti, stona nel senso forse è un auspicio più che una fotografia della realtà, quando Mario Monti ieri, lo trovate tutti immortalato, vestito mentre ieri visitava lo stabilimento della Barilla, ha detto della politica: la coesione è la parola chiave di questo momento, e ha parlato della politica così: non mi riferisco al governo, che per questioni particolari ha una coesione maggiore di governi passati, ma al mondo politico, tanto bistrattato, non sempre a torto, ma che dà prova di grande coesione. Ecco, il mondo politico che dà prova di grande coesione, ecco, è un auspicio o è una fotografia della realtà? Perché lo stesso Iena, impietoso Riccardo Barenghi, sulla stampa, a pagina 3, mette proprio questa frase: coesione, da quanto tempo Monti non legge un giornale? E questo, insomma, è il graffio di Iena, perché effettivamente dire che c'è la coesione nel mondo politico in questo momento sembrerebbe, così da un osservatore distratto e disattento come me, proprio il contrario. Allora, secondo i rumors, Elsa Fornero, ministro del welfare, sarebbe pronta a dimettersi se la riforma delle pensioni verrà toccata nel suo profondo nel voto in Parlamento, perché c'è una proposta di legge a firma Cesare Damiano, che è del PD e che è l'ex ministro del lavoro, è stato ministro del lavoro, che mira ad estendere le coperture per i cosiddetti salvaguardati, cioè mira ad aumentare e estendere la platea dei lavoratori salvaguardati. Per la riforma Fornero si tratta di 65.000 persone suddivise in 7 categorie diverse. Sono i lavoratori, cioè, esentati dall'applicazione delle nuove regole d'accesso alla pensione stabilite dalla riforma Fornero. Se si allarga questo panorama non ci sono le risorse, ha denunciato più volte Elsa Fornero. E dunque, eccolo qui, tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore c'è diverse pagine, un dossier di 4 pagine con domande e risposte per capire la riforma proprio del mercato del lavoro. Pensioni stop di Fornero ai partiti, così titola pagina 3 del Sole 24 Ore con l'articolo di Davide Colombo, mentre il retroscena di Fabio Martini sulla stampa è proprio questo: l'ira di Elsa, pronta a dimettermi se viene stravolto l'impianto. Elsa Fornero lo pensa e ci ha tenuto a farlo sapere: se in Parlamento dovesse essere stravolta la sua riforma delle pensioni, non avrebbe esitazioni a dimettersi da ministro. In questo pare che abbia il totale appoggio del premier Mario Monti, che fa sapere la stampa, premier che la difende. Non si può transigere su questa cosa. Staremo a vedere come va a finire questa vicenda. Certo, il ministro Elsa Fornero è pronta, pare, a mettere anche sul piatto della bilancia le dimissioni. Invece noi parleremo di IMU e Chiesa. Che cosa è successo ieri? Intanto partiamo dalla coda: il ministro del Tesoro Grilli, dopo la bocciatura del Consiglio di Stato della norma prevista dal governo per appunto far pagare anche l'IMU a tutti quei beni di proprietà della Chiesa che sono utilizzati anche a scopo commerciale o parzialmente commerciale, si tratta di questo, cioè invece quelli a scopo religioso sono esentati dall'IMU, e questo nessuno lo ha mai messo in discussione. Grilli ha detto: faremo pagare tutti, troveremo quindi anche ai beni della Chiesa, troveremo il modo. Sugli immobili della Chiesa il governo studia una soluzione dopo lo stop del Consiglio di Stato. Dino Pesole racconta, pagina 10, che proprio Grilli ha detto: prendiamo atto di questa cosa, ma l'obiettivo non cambia. E di che cosa? Beh, il rilievo del Consiglio di Stato, che in sostanza ha scritto che il governo sia andato ultra petita rispetto alla norma originaria contenuta nel decreto sulle liberalizzazioni. Cioè ha fatto un qualcosa che tecnicamente, secondo legge, non si poteva fare, oltre il consentito. IMU alla Chiesa, tutto da rifare. Così anche La Stampa, che intervista Mario Staderini, segretario dei Radicali, che sarà nostro ospite alle 8:30, che si auspica sia solo una battuta d'arresto, ma anche invece dall'altra parte il vescovo Michele Pennisi, che dice: se è uno stop utile che serve a far riflettere meglio su cosa comporta davvero estendere l'IMU a strutture ecclesiastiche o cooperative sociali che svolgono una funzione indispensabile, è uno stop utile. In realtà è una questione di corsa contro il tempo, perché se non si mette appunto il provvedimento legislativo entro la fine dell'anno, non si riuscirà a far pagare l'IMU agli immobili commerciali della Chiesa l'anno prossimo, nel 2013. È un po' irriverente, un po' Vauro, in prima pagina sul Fatto Quotidiano, nella sua vignetta, la vede così questa vicenda: bocciata IMU alla Chiesa. E c'è il Papa che si affaccia su San Pietro, guarda il cielo stellato, si rivolge evidentemente a Dio e dice: cavolo, ma allora esisti per davvero? Questo Papa Ratzinger sull'IMU e la Chiesa, secondo Vauro. E la cronaca racconta molto di questa vicenda di Milano, una vicenda di presunte tangenti davvero incredibile, che ha portato all'arresto di un funzionario comunale, di altre persone. Si tratta di 32 milioni per tre gare sulle quali ci sarebbero state mazzette, una vicenda ovviamente molto complicata. Le colonie per bambini, appalti truccati e tangenti a Milano. Così titola per esempio il Corriere della Sera, pagina 18, un fiume di denaro passava attraverso le mani del direttore del settore minori del comune di Milano, la cui firma era indispensabile per garantire finanziamenti a una miriade di associazioni, cooperative, parrocchie, onlus. Così scrive nel suo articolo Giuseppe Guastella. Dopo che per tre anni ha destinato ben 6 milioni di euro a progetti e iniziative di ogni genere e ha maneggiato 32 milioni per tre appalti nelle case vacanze comunali destinate alle colonie per i bimbi, ieri Patrizio Mercadante è stato arrestato per corruzione, turbativa d'asta, truffa ai danni del comune. Su Repubblica è vista così: tangenti per le colonie dei bambini, bufera sull'assessore della Moratti. Quattro arresti a Milano, oltre 40 milioni di fondi spartiti tra gli amici. Sul Fatto Quotidiano, tangenti anche sui ciechi, una cerchia legata da favori a fare, c'è anche un funzionario del comune. Si parla per esempio di una cena da 13.000 euro, racconta il Corriere della Sera, pagina 19, 13.000 euro erotti, pagano i milanesi con i fondi che dovrebbero finanziare la promozione dei diritti all'infanzia e dell'adolescenza, invece finiscono in una cena. E poi c'è le case. Gli italiani credono sempre nel mattone. Secondo il Quotidiano Nazionale c'è un filone di questa inchiesta che riguarda le case alla cerchia, le case dell'Istituto dei Ciechi date in affitto a chi? Beh, ecco i nomi degli inquilini. Tra i beneficiari, secondo il Quotidiano Nazionale, anche il figlio del prefetto di Milano Lombardi, la figlia dell'ex assessore del PDL Mariolina Moioli, il figlio del prefetto Lombardi appunto, la figlia di Carmela Madaffari, cioè un ex dirigente comunale della giunta Moratti, beneficiaria di una consulenza d'oro finita al centro di infuocate polemiche per il suo discusso curriculum amministrativo. Insomma, l'idea di case ai soliti noti, questo secondo l'accusa a Milano, presunte tangenti. Evviva! Oggi abbiamo con noi intanto Roberto Reggi, che è stato sindaco di Piacenza, attualmente è il coordinatore della campagna, uno dei coordinatori o il coordinatore della campagna elettorale di Matteo Renzi. Buongiorno Reggi e benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. Allora, intanto non è che le voglio far guardare dall'altra parte, forse dall'altra parte sarebbe Bersani, ma proprio dall'alta all'altra parte, cioè Berlusconi. Come avete accolto questa notizia forse vera? Ci credete che Berlusconi sia pronto a fare un passo indietro? Beh, l'abbiamo accolta con speranza, noi lo speriamo da tempo che faccia un passo indietro definitivo, perché secondo noi ha fatto anche troppi danni e fa del male anche al centrodestra, rimanendo lì in attesa, li tiene tutti in ostaggio e non dimostra di voler bene a quella parte politica che dice di voler rappresentare. Ma perché Renzi ieri ha detto, credo, ci sarebbe da pagare il biglietto se lo candida? Cioè, come dire, è uno spettacolo? Cioè, cosa intendeva? Sì, perché insomma lo hanno capito tutti, no? È chiaro che siamo al tramonto, è un tramonto doloroso per lui, ma per il paese soprattutto lo è stato fin quando è stato al governo. Adesso si spera che lasci il campo a qualcun altro, magari un po' più giovane, che abbia un po' di sprint e che rappresenti un'alternativa per chi si riconosce nei valori di centrodestra. Conviene anche al centro-sinistra avere un centrodestra che si rinnova, perché altrimenti rischiamo di consolidare quella forma di politica tra ultras che ha fatto male al paese e che vorremmo superare. Senta, ma lei da sindaco, da quando era sindaco, avrebbe fatto come ha fatto Renzi? Questa è una domanda un po' che è andato ad arcore da Berlusconi? Quando uno fa il sindaco e si trova in difficoltà con la sua comunità, che si trova tutte le mattine le persone che gli chiedono risposte ai problemi concreti, se le inventa tutte. Ci sarebbe andato anche lei. Ma insomma, io sarei andato dal Presidente del Consiglio a chiedere risorse per la mia comunità. In questo caso era un pranzo, non era una cena. Sì, però la differenza è sostanziale. Pranzo e non cena elegante. Però il concetto è che l'hanno criticato Renzi perché non è andato a incontrarlo a Palazzo Grazioli, a Roma, è andato senza dirlo, peraltro, è stata svelata la cosa successivamente ad Arcole. Ma non l'hanno criticato, per esempio, il mese scorso quando ha incontrato Monti in una sede non istituzionale a Firenze, che era un po' la stessa cosa, no? Voglio dire. Berlusconi ed è l'unico elemento che utilizzano contro Matteo, questo mi sembra un po' debole, vabbè, mettiamo pure che abbia fatto una cosa non proprio ortodossa, no? Soprattutto in quella situazione politica in cui si era, però insomma un sindaco quando va a cercare risorse, ovviamente nella legalità, di fronte al Presidente del Consiglio, fa quello che può. Insomma. Fa quello che può. Però sa, cioè, poi dopo le accuse, Renzi che in realtà è di centrodestra, Renzi che riabilita Marchionne senza se, senza ma, cioè da lì è partito. Vedere Monti è una cosa, vedere Berlusconi capisce che da lì è partito. Era Presidente del Consiglio, Milan, non era. Voglio dire, distinguiamo il ruolo, però. Ha incontrato il Presidente del Consiglio, l'ha incontrato a casa sua, va bene. Sì. Però era Presidente del Consiglio. Sì, questo senza dubbio. Non era il diavolo che invece è politicamente Berlusconi, secondo noi, rimane il diavolo, no? Politicamente, ma in quel caso era il Presidente del Consiglio e discuteva con il Presidente del Consiglio progetti importanti per Firenze. Senta, c'è questa accusa dei soldi, ma dove li trovate voi i soldi? Perché sa che Ugo Sposetti ha tirato in ballo anche, lui ha detto, vi ha fatto un po' i conti in tasca, ha detto 2 milioni erotti, sì. Qualcuno ha tirato in ballo, miliardi forse, sì, 2 milioni di euro, 2 milioni di euro. Ha tirato in ballo gli Stati Uniti, la destra di Stati Israele. Uniti, Israele, Ma sì, ma adesso voglio dire, noi ci siamo messi a ridere perché guardi, è tutto trasparente, se va sul sito di matteorenzi.it troverà l'elenco dei sottoscrittori, no? Sì. Quelli che alimentano il camper, che danno benzina al camper, che ci mettono 5, perché 10, costa 50. La benzina di questi tempi. E infatti per fortuna che ci sono tanti generosi volontari che ci aiutano, ma ci sono nomi e cognomi, dall'altra parte no però, Dall'altra parte non c'è niente, dall'altra parte. E magari usano tutta la struttura del partito al servizio. Sa quanti dipendenti ha il PD solo a Roma? Quanti? 200 persone. Queste stanno lavorando pancia a terra per uno dei candidati. Bersani. Se dovessimo conteggiare quanto costano al giorno, altro che 2 milioni di euro, Cioè, li spendono in un giorno. Ma le accuse di Stati Uniti e Israele da dove vengono? Ma non lo so, chissà che lo si è inventato sto ragazzo. No? Guardi, francamente, sto ragazzo Sposetti? Sì, ex ragazzo forse. Non lo so io cosa si è inventato. Francamente, noi guardi, io sono il coordinatore della campagna, ho messo part-time, il mio lavoro, sono un ingegnere, mi sono messo part-time, 3 giorni alla settimana lavoro, il resto della settimana, dal giovedì alla domenica, aiuto Matteo e giro con lui. Ecco, questo lo vogliamo dirlo, perché l'ho scoperto anch'io, l'abbiamo scoperto poco fa quando l'abbiamo chiamata. Lei oggi, cioè fino a mercoledì, lei lavora. Certo, poi da non mi posso mica permettere, non ci possiamo permettere un coordinatore a tempo pieno, tanto per dire come si è messo. Quindi no? Lei è coordinatore a part-time. Esatto. Cioè coordinatore a tempo pieno. Gli israeliani che mi pagano lo stipendio a me, no? Che io non posso permettermi di andare a tempo pieno a dare una mano a Matteo, perché non abbiamo al momento la forza per farlo. Però al di là del, lei dice contesta, nel senso si sono inventati questa cosa, è tutto chiaro, ma da cosa può nascere, cioè cosa ci può essere sotto dal mettere in giro queste voci? È la maldicenza che in passato per chi faceva la vecchia politica funzionava. Bisogna dire a questi ex ragazzi che è finita, basta, non funziona più, cioè la maldicenza porta sfortuna a chi la fa, non aiuta sicuramente a crescere e a farsi votare, perché la gente ormai individua con chiarezza quelle che sono le maldicenze da quelle che sono le verità. Un altro che ha tuonato è Stefano Fassina. Per la verità non sono mai stati grandi amici Stefano Fassina e Matteo Renzi, ma Stefano Fassina ha detto: ci avete copiato parte del programma, quello sugli asili nido e quello non so su cosa. Fassina l'asilo nido non so se l'ha visto quando c'è andato una volta, forse, spero, oppure ci ha portato i suoi figli se ce li ha, non lo so, con la differenza che noi gli asili nido li abbiamo fatti nelle nostre città. E li abbiamo fatti bene, talmente bene che intendiamo esportare il modello di Piacenza, di Reggio Emilia, di Firenze, per tutto il paese. Ma l'avete copiato o no? Perché se ha detto il programma è uguale a quello del PD... Il PD l'ha copiato da noi, noi non siamo del PD, volevo dare una notizia Fassina, che noi siamo del PD. Ah, è il PD che ha preso, il PD nazionale. Abbiamo contribuito a costruirlo noi quel programma lì, Fassina forse non c'era, ma noi sindaci abbiamo... contribuito in maniera decisiva a costruire il programma del PD, dal quale noi ovviamente oggi attingiamo, perché siamo del PD, non siamo mica di marziani venuti da Venere. Quindi diciamo quella parte del programma voi da lei come ex sindaco, Matteo Renzi come sindaco, l'avete messo in piedi? L'abbiamo messo in piedi noi per quella parte e l'abbiamo preso ovviamente la quota parte. Avete il copyright, diciamo. Ce l'abbiamo molto più noi che Fassina, adesso con tutto il rispetto per Fassina, che ripeto li ha visti sui libri gli asili nido, mentre noi li abbiamo sperimentati e realizzati, e ci sono tanti bambini per fortuna che li utilizzano. Senta, ma lei teme colpi bassi? Perché abbiamo iniziato dopo 2 giorni, allora il trappolone non c'è stato, quello delle regole delle primarie. Mi sembra di capire che siete abbastanza soddisfatti, no? Beh, insomma, adesso proprio soddisfatti no, perché... E cosa vorreste? Noi volevamo le regole come erano prima, che erano andate bene sempre, le hanno volute cambiare, ma ci mancherebbe. Se serve per dare più ordine... Noi siamo d'accordo. Ho l'impressione, non tanto velata, che ci sia qualcosa di più, almeno da parte di tante persone che appartengono all'establishment di Bersani, no? Che vogliono mettere dei paletti per ostacolare la larga partecipazione, perché temono che noi... Prendete i voti dal centrodestra, questa è la verità. Però le sembra normale prendere i voti da un possibile elettore del centrodestra? Guardi, in Italia non ci sono schieramenti rigidissimi, c'è una quota piuttosto significativa, 40-50% di elettori che una volta vota di qua e una volta vota di là, a seconda della proposta politica che hai sul campo. E noi questi vorremmo cercare di interessarli quantomeno. Abbiamo un progetto politico per il paese, mica per il condominio di mia sorella, e quindi vorremmo cercare di cercare di vincere, non soltanto di partecipare. Quindi la nostra proposta politica si rivolge a tutti i cittadini italiani. Poi è chiaro che sappiamo, essendo la proposta di centrosinistra, che per molti non sarà sicuramente digeribile, ma per tanti, incerti, sì, e quindi noi speriamo di convincerli, e quindi dobbiamo cercare di portarli a votare. Mi dica chi è, secondo lei, mi faccia però nome e cognome, la persona che rema più contro, dei bersaniani. Cioè no, chi... ma lì ce n'è un bel cioppo, voglio dire, sono in tanti, perché 2 o 3. Si sentono minacciati. Beh, lì abbiamo visto Marini, Labindi, Fioroni, sono questi che hanno, per esempio... sostenuto un ordine del giorno in assemblea che voleva restringere fortemente le regole di accesso al voto. Non mi ha citato D'Alema, che pare il piacere. D'Alema, sì, forse dovevo metterlo per prima, ha ragione. Effettivamente, pare il nemico numero uno. No, non è, guardi, noi di nemici non ne abbiamo. No, nemico politico. Abbiamo avversari politici, eventualmente. Sì, certo. Ma anche in questo caso, siccome c'è nello stesso partito addirittura, non sono neanche avversari politici. Sono persone alle quali abbiamo chiesto, ascolta, sono 15 anni che sei lì, le idee che avevi hai avuto tutto il tempo di realizzarle. Io ho fatto 10 anni di sindaco, poi per fortuna c'è una legge che mi dice dopo 10 anni quello che dovevi fare l'hai fatto, adesso basta, vai a casa. Io mi sono messo, sono ritornato al mio mestiere e contento di aver servito la mia comunità. Ingegnere elettronico. Elettrotecnico. E vabbè, insomma, D'Alema è nemico numero uno. No, lo dice lei. Avversario politico, certo. E Vendola che vuol rottamare invece? Vabbè, adesso per fortuna che ha idee diverse dalle nostre, non vuole rottamare, dice che le nostre idee sono da rottamare, secondo noi sono le sue da rottamare, nel senso che, per esempio, abbiamo gli stessi obiettivi, parliamo dei bambini, entrambi, Renzi e Vendola, vogliono dare una risposta alla esigenza educativa dei bambini in età di asilo nido, con una differenza che noi, lui vorrebbe fare tutto con il pubblico, sì, no? Sì. La gestione pubblica totale, che non si può fare perché non ci sono le risorse, come dire, mi piacerebbe farlo ma non riesco a farlo, e noi diciamo, perché l'abbiamo già sperimentato, si può fare con il pubblico che garantisce le regole e garantisce la qualità, in collaborazione col privato che ne fa anche la gestione, quindi una collaborazione pubblico-privato che funziona, perché il pubblico garantisce la qualità e il privato attua la gestione investendo, quindi mettendo risorse proprie, favorendo l'economia e dando una risposta concreta. È la parte che abbiamo detto di chi avete copiato, ecco, questa sarebbe la parte. Sì, la cosa che l'abbiamo tanto copiata, che l'abbiamo sperimentata da ormai 10 anni nei nostri comuni con grande successo. Fassina forse, ripeto, non c'era neanche quando l'abbiamo iniziato. Allora, devo chiudere, c'è anche la Iervolino che dice Renzi è un cialtrone. Guardi, a Napoli c'era un po' di indecisione prima di queste dichiarazioni, adesso sono tutti per Renzi. Dice, va bene, in bocca al lupo ovviamente, sperate di vincere, questo sì. Siamo ragionevolmente sicuri. Ragionevolmente sicuri di vincere, la sicumera, eh? Grazie Roberto Reggi, coordinatore della campagna elettorale di Matteo Renzi, siamo ragionevolmente sicuri di vincere le primarie. Staremo a vedere ovviamente, mentre dall'altra parte, il centrodestra, c'è un Berlusconi che forse si fa da parte. Monti dice vedo tanta coesione nella politica, forse la coesione proprio sembra quella che manchi in realtà. Comunque noi tra poco, dopo 5 minuti di pubblicità, parleremo di IMU e Chiesa, perché il Consiglio di Stato ha bocciato il provvedimento messo in piedi dal governo che per bocca del ministro Grilli ha detto metteremo rimedio a questo. Pagheranno tutti, torna la polemica sull'IMU e i beni della Chiesa usati a scopo commerciale o parzialmente commerciale. Il Consiglio di Stato ha dato un parere negativo, ha bocciato il provvedimento che il governo ha scritto, il provvedimento che doveva censire un po' tutti quegli immobili commerciali o uso misto commerciale utilizzati dalla Chiesa, sui quali il governo ha detto anche la Chiesa deve pagare l'IMU, perché ci sono delle zone grigie abbastanza ampie sui quali si vuole vedere chiaro. Siccome tra l'altro pende una infrazione, un rischio di multa salata da parte dell'Unione Europea per infrazione per questa cosa, il Consiglio di Stato ha bocciato questo provvedimento del governo. Il governo dice provvederemo subito. Il ministro Grilli ha detto metteremo anche nella legge di stabilità che inizia l'iter questa sera forse al Parlamento, provvederemo con una norma ad hoc per porre rimedio a questo, perché l'IMU la pagheranno tutti. Bisogna fare in fretta però, perché entro il 2012, altrimenti nel 2013 c'è il rischio che ancora ci siano delle esenzioni che molti cittadini italiani non capiscono. Ne vogliamo parlare con il segretario dei radicali Mario Staderini, che porta avanti da anni sia personalmente sia come radicali questa battaglia. Buongiorno e ben ritrovato Staderini. Buongiorno a voi. Saluto anche Mario Mauro, che è eurodeputato, vicepresidente del Parlamento Europeo. Buongiorno Mauro, del Popolo della Libertà. Buongiorno. Buongiorno. Staderini, lei credo ha definito subito una bocciatura, come dire, che le fa sorgere qualche sospetto? Cioè, quale sarebbe il sospetto? Che hanno scritto apposta una norma in maniera sbagliata? Ma ci sono dei fatti, ormai da anni, da destra a sinistra, indipendentemente chi sia al governo, c'è sempre qualche invenzione per evitare che le attività commerciali degli enti ecclesiastici paghino il dovuto, cioè l'IMU in questo caso, per non parlare di altre tasse. Anche questa volta è accaduto qualcosa di anomalo, cioè un governo tecnico ha fatto un errore tecnico, cioè ha creato un decreto, un regolamento, ha tentato all'interno di un regolamento applicativo di far rientrare dalla finestra quello che la legge avrebbe in teoria tolto, cioè questa esenzione estesa a tutti quanti. In pratica il Consiglio di Stato ha detto che il governo ha cercato di estendere a dismisura l'area dell'esenzione, sì, cioè in pratica ha aumentato i criteri per non far pagare l'IMU a tante attività commerciali degli enti ecclesiastici, e facendo questo è andata oltre la legge. Cioè, oltre la legge. Ma voi cosa chiedete a questo? Perché in realtà Monti, per sua stessa ammissione, è stato coraggioso su questo, ha fatto qualcosa che in passato non era stato fatto. Cioè, davvero non crede a un errore tecnico, ma crede che ci sia sotto qualcosa? Ma guarda, per far male si fa peccato, ma a volte bisogna farlo. Noi abbiamo una certezza, e c'è una questione di legalità italiana, europea, e della legalità per cui la concorrenza e gli aiuti di Stato devono essere vietati. Infatti, grazie a Maurizio Turco, un radicale che ha fatto una denuncia nel 2006 da Portavanti, l'Unione Europea dovrà decidere a breve il destino dell'Italia, se fare una sanzione e se farla chiedendo all'Italia che chieda gli arretrati per 5-6 anni a questi enti che ne hanno approfittato. Quanto sarebbe secondo lei l'ammontare della possibile infrazione? Ma guardi, l'ANCI stima in 600-800 milioni di euro l'anno. Di sicuro io posso dire che a Roma, quando abbiamo fatto delle richieste ufficiali, si è calcolata intorno ai 40 milioni di euro per la sola città di Roma il mancato introito. La realtà è che non si potrà mai sapere fino a quando non ci sarà un censimento vero che dimostrerà quante sono le proprietà di questo grandissimo proprietario immobiliare. Insomma, sì, certo. Possiamo ripagare noi, come Italia, una canzone europea, perché loro non pagano. Potrebbe essere 800 milioni, secondo stime più ampie, in 5 anni sono 4 miliardi di euro. Vorrei chiedere al presidente Mauro se è uno stop, secondo lei, tecnico, o se è uno stop, come dice oggi il vescovo Pennisi, intervistato dalla Stampa, uno stop utile per servire a riflettere, se serve a riflettere meglio, su cosa comporta davvero estendere l'IMU a strutture ecclesiastiche e sociali che svolgono una funzione indispensabile. Cioè, secondo il vescovo Pennisi, dobbiamo fare un passo indietro, mettere ancora in discussione il principio, onorevole Mauro? Ma guardi, intanto il principio non è relativo agli enti ecclesiastici, ecco, questa è la prima contraddizione, falsità, bugia, chiamiamola come vogliamo, da cui sombrare il campo. Il nodo riguarda gli immobili del cosiddetto non profit, cioè di tutte quelle attività che vengono condotte con finalità sociali. All'interno di queste ci sono gli immobili della Chiesa Cattolica, sì, e anche delle altre religioni che hanno intese con lo Stato italiano. Ora, il concetto del non profit, vale a dire che ci siano attività che in virtù della finalità sociale che rivestono possono avere delle esenzioni, non è un concetto nato all'interno del concordato e non è un concetto nato all'interno delle relazioni dello Stato italiano con le religioni che hanno delle intese con questo Stato. È un concetto che si è sviluppato soprattutto durante il primo governo Prodi, mm-hmm, e che ha avuto come riflesso il potenziamento del cosiddetto terzo settore nel nostro paese, che aveva lo scopo di aumentare la capacità di sopperire al deficit di welfare che gli stati in un contesto globale, sarei per dire, come quello che si vive adesso, non riescono ad affrontare. Quindi questo è il primo. No, ma è chiaro che riguarda per esempio riguarda anche i sindacati. L'osservazione di Stazzerini mi colpisce per una ragione semplicissima, perché sto scoprendo adesso che l'errore tecnico del ministro Fornero sugli esodati nasconde dietro chissà quale altra trama la Dan Brown. Cioè non capisco perché quando questo governo, che è di tecnici, sbaglia in un settore è un errore, e quando sbaglia in un altro settore che riguarda le competenze del non profit c'è il complotto dietro, e c'è appunto chissà quale organizzazione, quale spectra vaticana che ha promosso il tutto. Terza osservazione, entriamo nel merito, e nel merito il Consiglio di Stato dice appunto di non poter entrare nel merito, dice cioè che questo regolamento messo a punto dal Ministero per disciplinare la materia è andato oltre competenze che gli affidava la legge. Quindi la soluzione mi sembra talmente semplice: ci vorrà una legge che sia o nuova e quindi assorba in sé le parti ieri affidate al regolamento in modo, secondo i giudici, indebito, oppure la stessa legge che però affidi in modo formale ed esplicito al regolamento il compito di mettere ordine in una casistica oggettivamente però, molto complessa. Però Presidente Mauro, lei almeno le chiedo questo, Mauro, lei non contesta il fatto che si faccia la legge che serve, si faccia il provvedimento ad hoc che serve, ma si faccia in fretta, perché già dal 2013 quelle zone d'ombra, cioè quei magari forse conventi utilizzati in realtà come alberghi in parte, paghino l'ICI, l'IMU. Questo secondo lei è giusto? No, le devo essere sincero, l'oggetto vero del contenzioso, anche leggendo l'articolazione del pronunciamento del Consiglio di Stato, riguarda tutto tranne che gli alberghi, i conventi usati come alberghi. Mi spiego, semmai il quesito riguarda, perché il Consiglio di Stato è molto preciso, dice attenzione, ci sono una serie di attività che sono chiaramente definite, cioè sono immobili adibiti ad attività commerciali, devono pagare l'IMU. Se non lo sono non lo devono pagare, fin qua nessun dubbio, sono quelle a zona mista, neanche nessun bisogno di avere regolamenti attuativi. Però se l'immobile svolge solo in parte attività commerciale, nessun dubbio quando questa è chiaramente identificabile, ma se non lo è, se l'utilizzo è misto, allora il Consiglio di Stato dice attenzione, su queste parti avete dato dei criteri, ma questi criteri non li dovevate dare voi, perché il modo di organizzare questi criteri può aspettare semplicemente alla legge. E questi criteri cosa riguardano? Riguardano per esempio le attività di istruzione, le attività sportivo-ricreative, tanto per capirci, alcune attività. Ma su queste secondo lei dovrebbe pagare l'IMU la Chiesa, quelle appunto miste, al di là del fatto che hanno sbagliato, cioè non doveva darle come competenza quel regolamento del Ministero del Tesoro, ma se si faceva coi dovuti modi dovrebbero pagarlo? Beh, io su questo ho una visione che è portata di una cultura, quella visione che si rifaceva anche al decreto legge 460 di Visco, vale a dire nell'attività come l'istruzione, erogatore di un'attività di istruzione che è un servizio pubblico può essere anche un soggetto che non sia lo Stato. Nel mio caso, secondo la mia visione, la risposta è sì, e quindi sicuramente in quel caso, se c'è un immobile che ha dentro un'attività di istruzione, non deve essere assoggettato all'IMU. Questa è chiaramente la mia visione. Qualcuno mi dovrebbe spiegare rispetto a che cosa esercita la concorrenza sleale, considerando che nel caso dello Stato tutto è coperto dalla. Su questo mi faccia sentire che ne pensa Stazzerini, ribatta su questo punto, Stazzerini. Una cosa molto semplice: quelle che sono scuole e cliniche che non sono dello Stato e non sono degli enti ecclesiastici, ma esercitano, loro invece l'IMU la devono pagare. Ma vorrei ripetere ancora un'altra cosa: la spectra, si parla chissà quale ideologia. Beh, c'è un libro che ha venduto un po' di copie, il libro di Nuzzi, proprio in cui vengono pubblicati documenti vaticani, e da un documento di questi risulta che, così c'è scritto, non mi sembra ci siano state smentite, che il ministro dell'economia di allora aveva suggerito, al Vaticano le modalità per evitare che la sanzione europea, proprio perché non pagavano l'ICI qua in Italia le attività commerciali, potesse ricadere sulle spalle degli enti ecclesiastici. Chi era? Tremonti? Tremonti era. All'epoca il ministro Tremonti, così così è riportato da un documento di un altro funzionario vaticano pubblicato sul libro di Nunzi, quindi non è niente di che. Quindi no, spectre no, però lei dice, però un po' spectre sì, semispectre sì, cioè qualcuno che... E vorrei chiudere con un aspetto su questo argomento. Allora, noi paghiamo come Italia, con le nostre tasse, gli stipendi dei preti, paghiamo gli insegnanti di religione, i cappellani, paghiamo le università confessionali a cui diamo i soldi, paghiamo gli oratori e quando il Papa va in giro gli paghiamo le spese con le regioni e i comuni. Hanno intascato 17 miliardi di euro di 8 per 1000 e vari soldi a pioggia da regioni e comuni, occupano le televisioni pubbliche, neanche vogliono pagare l'IMU sulle attività commerciali. Dobbiamo salutare il vicepresidente del Parlamento europeo Mario Mauro, perché credo arrivi Mario Draghi e quindi gli ultimi minuti c'è con noi Mario Staderini. Parliamo di IMU e Chiesa. So, un ascoltatore che mi scrive: che modo di fare radio è questo? Vergogna. Ma circostanze un po' di più le accuse, le critiche, perché così non vuol dire nulla un messaggio del genere. Vorrei sentire Francesco da Latina, che ci ha chiamato all'800240024. Francesco, buongiorno. Salve, buongiorno. No, io semplicemente volevo dire che secondo me su questo argomento c'è un po' di confusione. Qualche tempo fa mi pare che il cardinale Bagnasco avesse fosse dato, diciamo, per quanto disponibile in un certo senso, non è che fanno le leggi, però aveva detto semplicemente che questa situazione non è chiara, non fa neanche bene alla Chiesa, perché diciamo alimenta. E infatti per questo infatti si è fatto questo provvedimento, che però è stato considerato sbagliato tecnicamente dai tecnici del governo. Francesco, cioè, diciamo, a maggior ragione la Chiesa nel caso particolare, quindi non vedo complotti, o meglio ci possono anche essere, l'Italia è un paese di complotti, però in ogni caso questa situazione mi sembra sia confusione dal punto di vista politico, cioè Staderini e gli altri siedono nello stesso palazzo, quindi diciamo se non riescono a fare le leggi per bene non è che si può attribuire questa responsabilità. Allora, dire a un radicale siede nello stesso palazzo forse è la pugnalata più sanguinolenta nel costato che poteva dare a Staderini, o non lo so. Staderini, voi sedete nel palazzo come tutti gli altri, avete dei deputati, quindi... Beh, diciamo che sarebbe da querela all'amministratore, nel senso che i radicali quello che potevano fare l'hanno fatto, hanno fatto una denuncia all'Unione Europea che ha aperto una procedura e grazie a questa procedura il governo è costretto a fare qualcosa. Non diciamo poi che Bagnasco ha dato la disponibilità. Beh, però è vero, Bagnasco ha detto, se ci sono, dopo una serie di tira e molla, di polemiche, ha detto, quando ha capito che il governo Monti era intenzionato ad andare in quella direzione, il segretario della CEI ha detto, se ci sono delle situazioni da sanare, discutiamone, ecco. Ecco, allora, cambiamo innanzitutto, chiariamo, in questo caso, siccome non è il concordato di mezzo, ma è stato un regalo del governo Berlusconi poi confermato, la CEI e la Chiesa Cattolica non deve dare nessun permesso, fino a prova contraria le leggi le fa lo Stato italiano e le fa perché decide di farle. In secondo luogo, ha detto bene lei, quando ha visto la mala parata ha provato a far vedere che era una concessione da parte della Conferenza Episcopale Italiana, quando in realtà continuano oggi a sostenere che non ce n'era bisogno perché la Chiesa ha sempre pagato le tasse, salvo poi io essere andato in un convento, diciamo, ricordato, a una casa riservata a sacerdoti, e aver dimostrato con un video nascosto che invece potevano entrare tutti. Sì, perché Staderini ha fatto anche questo, è andato a fare delle immagini. Ma è una notizia. Sì. Dopo che sono andato a fare quello, loro hanno cercato di dire che non era vero, che pagavano. Beh, la notizia è che il Comune di Milano, solo per quel singolo... Ha chiesto poi il limo. La struttura ha chiesto arretrati per, mi sembra, 200-250 mila euro. Cioè, Staderini, poi le daranno dell'anticlericale ancora di più così. Mi faccia sentire Pierangelo da Busto Arsizio. Buongiorno Pierangelo. Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. Dunque, due cose velocissime. Io vorrei che il deputato Staderini ci mettesse la stessa enfasi contro le banche e contro i sindacati, che sono stessi enti che non pagano IMU. Vorrei capire perché questa distinzione, questo secondo me accanimento contro la Chiesa, che tra l'altro dà un servizio pubblico oggi come oggi nei piccoli comuni dove io sono consigliere, sopperisce alle nostre mancanze di liquidità in una maniera eccezionale. Pierangelo, stia con noi, non vada via, visto? La faccio diventare interlocutore di Staderini. Staderini, c'è accanimento della Chiesa. Effettivamente non si dice spesso che questo provvedimento vale appunto per tutti quelli che fanno no profit, anche i sindacati per esempio che non pagano, anche i partiti che non pagano, mi risulta, o no Staderini, dico una falsità? Ma vai, noi la paghiamo nell'unica sede che abbiamo. parliamo, per cui non, di questo non so, però posso rispondere all'ascoltatore sì, molto volentieri. Sì. Allora, premesso che io sono anticlericale ma per religiosità, io vengo da un'educazione francescana e credo che faccia male alla Chiesa il potere, il denaro e occuparsi di business anziché di anime e fedeli. Detto questo, beh, c'è una grande differenza. Le banche, i sindacati, i partiti, che dovrebbero pagare anche loro, però non hanno non hanno 4-5 mila scuole, non hanno business occupo per 4-5 mila miliardi di euro. Le banche no, Staderini, le banche che non hanno business. No, non hanno del business nella sanità, non fanno business con la scuola, non fanno business nel turismo, c'hanno altri business. Ma quando fanno business diversi, che pagano, cioè la sede della banca, mettiamola così, la filiale bancaria, sì, la paga, è la fondazione bancaria che non paga. Detto questo, le dico la mia opinione, secondo me dovrebbero pagarla tutti, una volta che c'è l'IMU anche per la prima casa di una famiglia, tutti dovrebbero pagare, compresi diciamo le no profit, altro, tutti dovrebbero pagare l'IMU, perché se lo paga una famiglia, sì, lo devono pagare tutti. No, ma è chiaro, su questo Pierangelo è soddisfatto di questa risposta? Sì, abbastanza, anche se è chiaro che ha già toccato il nervo scoperto, sono le fondazioni bancarie che detengono tutti i locali delle banche, e adesso con tutte queste vediamo in giro un sacco di locali ex banche che sono vuoti e non pagano assolutamente nulla. Veramente è una cosa che dà fastidio. La Chiesa, al di là di tutto quello che dice il deputato, che può essere giusto o sbagliato secondo la Chiesa, offre un servizio pubblico. Oggi come oggi non ci arriviamo a fare un asilo perché ci hanno bloccato. Guardi che però, Pierangelo, una cosa è chiara: la parrocchia non paga l'IMU, e neanche perfino Staderini non mette in dubbio questa cosa. Cioè, nel senso, se gli edifici della Chiesa che vengono utilizzati per luoghi di culto non pagano l'IMU e devono continuare a non pagare l'IMU, si parla invece di quegli edifici che vengono utilizzati anche o parzialmente o totalmente a scopo commerciale. Quelli totalmente commerciali pagano, quelli parzialmente c'è questa zona grigia che non si capisce da che parte debbano rientrare. Comunque io la ringrazio, così come ringrazio Mario Staderini dei Radicali e Mario Mauro, che ci ha lasciato pochi minuti prima, vicepresidente del Parlamento Europeo. Ci fermiamo qui, a domani alle 6.30.